E nuovamente in mostra, nuovamente con Radio Città Fujiko. Come ben sapete, già ne abbiamo presentati i motivi di incontro per il centro ricerca associazione Il Pioniere. Beh, chiaramente l'entusiasmo, la passione, la voglia di fare e anche la capacità di ricerca dedicata al fumetto, all'arte, all'illustrazione e alla grafica. Anche se in questo caso facciamo una piccola divagazione all'interno della rubrica In Scena, perché la curatela di questo incontro è con i 300 Scalini, ma le rassegne ora sono diventate così trasversali che abbiamo riportato all'interno di In Mostra per poi riprenderla nell'avvicinarsi all'appuntamento del 19 luglio. Questo incontro in una giornata chiaramente molto piena proprio per l'aspetto eterogeneo della rassegna, la curatela di teatro dei Mini. Sono un ribelle babbo il titolo, chiaramente parliamo di Pinocchio, il babbo è Geppetto, perché è un ribelle, bene, parleremo con Morena Moretti del CRAP. L'organizzazione della giornata, Pinocchio ha diversi contenuti tra l'altro che sono sempre e comunque attuali, come ho detto ne parleremo, però qualche momento dedicato anche all'organizzazione di questa giornata che è il 19 luglio dalle ore 19, però alle ore 18:15. Il Pedibus con Teatro dei Mignoli, CRAP e Radio Città Fujiko, appuntamento all'entrata di Villa Spada per raggiungere in passeggiata i 300 scalini, a due passi dal centro, a qualche passo in più per arrivare in questo luogo magico con una vista sulla nostra città veramente speciale. Procediamo quindi alle ore 19 con quello che dà adito poi all'esposizione vera e propria, che è un laboratorio di rilegature e decoupage su Pinocchio, orientato per bambine e bambini a cura del Comitato Ricerca Associazione Pioniere. Alle 19:30 le tavole scelte, ecco l'esposizione di cui vi parlavo, dal Pinocchio di Gianni Rodari e Raul Verdini, pubblicato a puntate sul giornalino illustrato Il Pioniere nel 1954. Sarà letto dal Teatro dei Mignoli e commentato e attualizzato da alcune delle voci selezionate da Radio Città Fujiko. Alle ore 21 ci sarà il concerto, non mancherà la musica, concerto degli Le avventure di Pinocchio non finiscono mai. Mai, noi siamo sempre impegnatissimi su Pinocchio, perché vogliamo ricordare che Pinocchio è un personaggio che è stato disegnato da Verdini e Rodari per Il Pioniere nel 1954, quindi noi siamo molto affezionati a questo personaggio. Su questo personaggio abbiamo fatto una mostra e oggi porteremo delle tavole di questo lavoro ai 300 scalini, quindi le stiamo preparando e il 19 luglio saranno esposte una selezione di tavole proprio lì, e quindi invito tutti naturalmente a vederle. Ma non c'è solo l'esposizione di tavole, intorno a questa esposizione di tavole il CRAP, il Comitato Ricerca Associazione Pioniere, e commenterà le tavole che saranno lette dal Teatro dei Mignoli, quindi degli attori del teatro, con commenti di Cinzia Monari, Paola Barbieri, Michela Marchiolo e Andrea Utensili. Sono commenti che riattualizzeranno questo Pinocchio, perché Pinocchio, come credo tutti sappiamo, immaginiamo perché lo conosciamo, è un burattino, è un personaggio estremamente attuale, è un ribelle e oggi abbiamo anche bisogno di questi ribelli. Grande talento per la Label Bleu, Richard Galliano e il suo quartetto. New Musette, il titolo dell'album che stiamo ascoltando. Barry Waltz, il brano, fate un valzer. Sono un ribelle babbo, il riferimento al brano Sono un ribelle mamma dagli Schiantos, ma in questo caso citando Geppetto che riceve questo ciocco di legno che improvvisamente prenderà vita e ha delle particolarità ribelli e nello stesso tempo molto attuali. Ne parleremo a breve. Fra l'altro voglio sottolineare per quanto riguarda questa giornata i 300 scalini, ribadisco, l'ingresso è libero, ingresso libero. Estate, nella nostra città la possibilità di avere questo posto all'interno di una che si trasformerà da palcoscenico, oltre che palcoscenico già naturale, con una bellezza di sguardo veramente intensa, a sede espositiva grazie al lavoro del Centro di Ricerca Associazione Pioniere. Più di quanto si possa immaginare ne è attuale il personaggio. Aggiungo che il titolo è Sono un ribelle babbo, in questo caso il richiama Geppetto probabilmente. Esatto, richiama Geppetto e Sono un ribelle babbo, appunto. Pinocchio, tra l'altro, nelle sue avventure noi possiamo trovare dei temi davvero di grande attualità, dalla repressione, perché lui viene arrestato come innocente, dal fatto che è un figlio anomalo, diciamo, fa parte di una famiglia arcobaleno perché il babbo è Geppetto, ma questo ciocco di legno gli è stato dato da Mastro Ciliegia. Poi abbiamo una fatta turchina che lui in un certo senso la sente un po' come una mamma, che però è una signora single, non è effettivamente la mamma, è la sua mamma. Quindi abbiamo anche un Pinocchio dentro una famiglia arcobaleno, così come abbiamo un Pinocchio che, per esempio, quando va a cercare Geppetto e finisce nella pancia del pesce cane insieme al babbo, li trova dentro questa pancia del pesce cane detriti di tutti i tipi, cosa che oggi è un altro problema molto serio, che è quello delle plastiche negli oceani, per esempio. Quindi ci sarà anche Andrea che parlerà proprio di questo, delle questioni ambientali. Quindi noi diciamo che raccogliamo degli spunti da questa storia, da queste tavole, per poter raccontare dell'oggi. Poi chiude la giornata Giuseppe Chiarello, che è del Centro Studi Vinicio Berti, che ci presenterà il Pinocchio di Vinicio Berti, che è pioniere, un grande autore del Pioniere, ci presenterà appunto questo Pinocchio di Vinicio Berti, e che è davvero un manifesto politico quello che Berti ha disegnato e scritto su Pinocchio. Quindi verrà presentato in questa occasione. Quello che ancora volevo dire è che ci sarà anche un laboratorio per bambini, un laboratorio che è, faremo un libro, il librino di Pinocchio per i bimbi. Ogni bimbo costruirà con la carta il proprio libro e poi lo disegnerà. Aggiungo anche che vi è la tematica dello sfruttamento sul lavoro minorile, perché non viene portato a lavorare dove sarà poi trasformato in un ciuco da mangiafuoco. Insomma, c'è anche quell'attenzione. Sì, questa è una tematica importante, è vero, bisogna ricordarlo, perché questo vengono trasformati in ciuchi, lui e anche il suo amico Lucignolo, c'è il lavoro minorile, ma c'è anche la morte sul lavoro, perché Lucignolo, da asino sfruttato, muore, perché poi c'è anche questo tema della morte in Pinocchio, è molto presente. Quindi 19 luglio, ore 19, sottolineiamo che l'ingresso è libero e c'è la possibilità dalle ore 18 con un pedabus da Villa Spada fino ad arrivare su ai 300 scalini. Io ti ringrazio tanto, Morena, e ti auguro buona giornata. Grazie. Quanti contenuti che ha Pinocchio, eh? Tanti, eh! sarà 19 luglio alle ore 19 all'interno dei 300 scalini per la rassegna estiva. Che bella l'estate che ci dà anche queste possibilità, la curatela del Teatro dei Mignoli, la possibilità di un'esposizione che oltre bellezza porta anche diversi motivi di riflessione, come abbiamo ascoltato dalla voce di Morena Moretti dal Centro Ricerca Associazione Pioniere. L'ingresso è libero. Incognito, voce Jocelyn Brown, brano Always There. E l'appuntamento è a domani, puntuali ore 7, ultima colazione settimanale per questa seconda settimana del mese di luglio al Breakfast Club, che porterà a conclusione la stagione 2023-2024. Quest'oggi a breve la penultima puntata di stagione per l'Edipeo enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi avremo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Domani presentazione completa per Sementerie e per Plurali Maschili, Sementerie Artistiche a Crevalcore, Plurali Maschili alle Serre dei Giardini Margherita, in scena Radio Città Fujiko. Io vi ringrazio per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club sui 103.1. Mi congedo a voi e intanto vi lascio con Incognito e la voce di Jocelyn Brown. Vi auguro un buon giovedì e un buon ascolto dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. A domani, ore 7 puntuali. E ciao, buona giornata.